Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Per consentire ai treni veloci di correre ancora di più bisogna necessariamente ridurre al minimo l'attrito sia col terreno che con l'aria. In mancanza di ciò potremmo anche avere treni velocissimi, ma il loro consumo di energia sarebbe superiore a quello degli aerei, che non a caso volano a 10.000 metri di quota, dove l'atmosfera è molto rarefatta. Ebbene, nel 2012 il miliardario americano Elon Musk presentò un concept per realizzare un sistema di trasporto chiamato Hyperloop, una sorta di supertreno che viaggia sospeso e quasi sottovuoto, salvo poi rendersi conto che non aveva il tempo di seguire questo progetto. Così ha pubblicato tutti i documenti in open source e invitato chi ci credeva a svilupparlo al posto suo. Tra le startup che sono nate su questa scia c'è Hyperloop Transportation Technology, fondata in California dall'italiano Gabriele Gresta insieme col socio tedesco Dick Alborn. E questa è anche la società più vicina a realizzare un primo prototipo di Hyperloop, come ci siamo fatti spiegare proprio da Gabriele Gresta. Sentiamo. Immaginatevi un tubo, in questo tubo viene inserita una capsula, la capsula è in grado di levitare con un sistema misto di levitazione, all'interno del tubo viene sottratta l'aria, viene portato a 100 pascal, quindi un quasi sottovuoto, diciamo. Sì. In questo modo la resistenza è bassissima e siamo in grado di raggiungere velocità che ad oggi toccano quasi Mach 1, cioè quasi la velocità del suono, cioè intorno ai 0,95. 1265 km all'ora. Ok, d'accordo. Ad altezza suolo. Quindi vorrebbe dire fare Milano-Roma in 25 in circa minuti. In circa mezz'ora. Ecco, questo tubo, voi lo immaginate a 6-7 metri di altezza, quindi montato su dei pali, qualcosa di questo genere. E quanto è largo? Sì, allora, sono 12 piedi, quindi tradotto dovrebbe essere... 4 metri essere, più o meno. Oddio... Esatto, la capsula invece sono 9 piedi, quindi è un pochino più circa 3 metri, più piccola, sì, diciamo. Sì. Tu parli di 7 metri, ma in realtà immaginatevi che la capsula deve andare il più dritto e il più stabile possibile. Diciamo che sono diversi altezze. Sì, certo, si fa in modo che seguono un po' il territorio, certo. Quindi in alcuni punti abbiamo anche 100 metri di piloni. Certo. E quante persone viaggiano in una capsula? Abbiamo 28 persone nella capsula di Economy e poi stiamo progettando una serie di capsule speciali per la prima classe, ma anche per malati, quindi per ospedali o per esempio per i bambini, capsule per il learning. Quanta energia consumerà questo sistema? È un sistema energivoro? Allora, Hyperloop è stato concepito come l'unico sistema di trasporto al mondo che sta generando più energia di quella che consuma. Noi non solo abbiamo la possibilità di montare i pannelli solari sopra al tubo per tutta la lunghezza del tubo, ma abbiamo studiato anche sistemi di recupero energetico, certo. Per esempio dal movimento dell'aria all'interno del tubo, oppure se immaginate l'accelerazione della capsula consuma energia, ma poi quando deceleriamo siamo in grado di generarla. In più abbiamo aggiunto alcuni sistemi altamente innovativi, per esempio siamo in grado di sviluppare energia dai piloni o usare energia geotermica, quindi in base al clima siamo in grado di rivendere energia anche alla grid, cioè alla rete elettrica nazionale. Quanto costa questa infrastruttura? Naturalmente è chiaro che i costi di infrastrutture di questo genere scendono se si cominciano a diffondere, però insomma un ordine di grandezza. Allora, bisogna parlare un po' in generale perché ovviamente dipende se siamo in pianura o se siamo in Svizzera dove dovremo costruire varie gallerie o ponti, però diciamo un costo medio, se vi immaginate che un Los Angeles San Francisco costa 68 billion con l'alta velocità, che sarà il progetto più costoso e meno efficiente della storia, noi costiamo in paragone con la stessa tratta 14 billion, miliardi, di una, miliardi di dollari. Quindi vuol dire che noi siamo un sesto del costo di una ferrovia ad alta velocità. Chiaramente stiamo interrogando, stiamo facendo una disruption totale, ci stiamo interrogando se servono stazioni, ci stiamo interrogando non solo se serve il biglietto dal punto di vista fisico, ma anche se ha senso proprio dal punto di vista economico. Cioè abbiamo 25-30 minuti l'attenzione totale dei nostri passeggeri, troveremo modi e stiamo sviluppando modi di monetizzarlo, per cui in alcune fasce orarie il costo sarà gratuito, Mentre invece su fasce ad alta densità costerà di più. Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento domani per la seconda puntata dedicata ad Hyperloop, che come vedremo esordirà su un primo tracciato di prova già nel 2016. Buona serata.